Letture di Radio 24. L'aumento vertiginoso del prezzo del carburante scatena la rivolta dei tir. Protesta legittima, scrive Rinaldo Gianola sull'Unità, ma le minacce e le intimidazioni usate da alcuni dei dissidenti non si possono tollerare. L'incendio è scoppiato all'improvviso, ma il governo lo ha sottovalutato. È la benzina, il costo insostenibile del carburante che in Italia continua a salire anche quando il petrolio cala, a far scoppiare la protesta dei camionisti. Una protesta legittima, ma è bene dirlo subito, pericolosa per i cittadini e l'ordine pubblico. Al primo giorno di sciopero nazionale dei tir, infatti, la protesta ha subito superato in diversi casi i confini della legalità. Dopo la sperimentazione di una settimana effettuata in Sicilia, che ha messo in ginocchio l'economia dell'isola, il movimento dei forconi, declinato nella veste più presentabile delle organizzazioni dei camionisti, ha preso in ostaggio l'intero paese. Le ragioni dei padroni della strada sono fondate. La benzina, il gasolio sono la loro linfa vitale, non possono farne a meno per lavorare. Ma i prezzi in Italia sono intollerabili, sono più alti del 20-30% rispetto a paesi vicini a noi. E il costo del pieno, gravato dalle accise di ogni tipo e origine, non cala nemmeno quando le dinamiche internazionali dei prezzi del greggio sono al ribasso. In più, i costi delle polizze assicurative sono pesanti e penalizzanti. Le tasse sono alte. La categoria si sente colpita dai costi e trascurata dal governo e dalle autorità. I camionisti hanno le loro legittime rivendicazioni. Qui non si discute il legittimo esercizio del diritto a scioperare, a protestare, a contestare le misure del governo e delle amministrazioni locali. Quello che però non è tollerabile, che fa assumere immediatamente un inquietante profilo cileno alla mobilitazione dei tir, è la minaccia fisica ai dissidenti, l'intimidazione, le infiltrazioni malavitose, il taglio delle gomme, il blocco delle corsie delle autostrade. La cronaca della protesta di ieri dei camionisti offre episodi molto preoccupanti, perché, visto che per tutta la settimana i tir hanno deciso di restare sulle strade del paese e la loro presenza non passerà inosservata, non si può pensare che la mobilitazione possa diventare giorno dopo giorno sempre più minacciosa. La questione del caro benzina e la richiesta di un IRPEF più leggera non possono diventare una minaccia all'ordine pubblico, in un momento in cui il paese vive già altre gravi tensioni e la coesione sociale è sempre più messa a rischio anche per l'approccio forse troppo tecnico e accademico del governo Monti, verso problemi che invece sono fatti di persone in carne e ossa. Nelle piazze protestano i taxi. Adesso si aggiungono i camionisti sulle autostrade. Tira una brutta aria. Che cosa si aspetta a disinnescare queste tensioni? Il governo superi i tempi tecnici e chiami subito i camionisti per allentare la tensione e risolvere i problemi. Di botte in autostrada non ne abbiamo bisogno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rinaldo Gianola, Benzina sulla rivolta, dall'Unità del 24 gennaio.